Incontri di Gianfranco Fabi. Le note inconfondibili della Sinfonia del Nuovo Mondo di Andrin Dvorak. Iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Fabio Vaccarono. Buonasera a voi. Fabio Vaccarono è amministratore delegato di Google Italia, la Sinfonia del Nuovo Mondo, perché questa sera con Google Italia parliamo di un nuovo mondo. Sì, sì, il nuovo mondo dell'economia digitale, anche per dare una nota di ottimismo e di apertura al futuro, credo insomma ce ne sia bisogno. Ecco, Google è un nome che non ha bisogno di presentazioni, anche se è un nome che ha solo poco più di 15 anni, mi pare che è stato creato nel 1998 per indicare appunto l'infinito mondo di internet, e Google è un motore di ricerca ed è il sito internet più cliccato, più visitato del mondo. Fabio Vaccarono è appunto amministratore delegato di Google Italia. Diamo una carta d'identità di Google Italia. Ma diciamo, Google Italia nell'ambito di Google è un paese di una certa importanza a cui è demandata una missione molto italica. Molto spesso si tende a pensare, quando si guarda queste multinazionali globali, soprattutto del mondo della tecnologia, che poi ci sia molto un approccio one size fits all. In realtà poi ai paesi è demandata la responsabilità e anche il piacere di trovare poi una strategia, un modo di essere Google nell'ambito di quel paese. Allora, noi ci siamo dati la vocazione di aiutare il sistema economico italiano a trarre il meglio di se stesso dalle nuove possibilità offerte dall'economia digitale. Quindi non è solo un motore di ricerca, ma è un motore di crescita. Ma noi siamo convinti che l'economia digitale sia una straordinaria opportunità di crescita, ce lo dicono i numeri. Molto spesso ci troviamo al cospetto di un pregiudizio, che è quello che dice: che fortuna, ci sono quelli della tecnologia, quelli dell'high tech che crescono, cambiano il mondo, fanno dei mestieri divertenti, e poi ci sono gli sfortunati che stanno in settori più tradizionali, che hanno meno propensione, meno spazio per l'innovazione. In realtà l'economia digitale è stata definita da Rifkin la terza rivoluzione industriale. È il settore più orizzontale e trasversale che esista. Credo che internet sia veramente il futuro di tutti. Non significa naturalmente che diventeremo tutti iperdigitali, ma significa che ogni azienda, quale che sia la sua dimensione o il settore produttivo, può trarre un beneficio immenso dall'aprirsi all'economia digitale. Ecco, un beneficio che è nel farsi conoscere, di essere in rete, di mettersi in rete con gli altri. Quanti sono i potenziali utilizzatori di internet, ma quindi anche di Google? Ma il potenziale è gigantesco. Noi abbiamo fatto uno studio, abbiamo guardato i paesi del G20. Le 20 economie economicamente più sviluppate del pianeta. Ebbene, già oggi il 25% della loro crescita, della share of growth, diremmo con un'inclinazione un po' anglosassone, viene già oggi dall'economia digitale. Per dare un'idea, un paese come la Gran Bretagna, che a me piace pensare più simile a noi di quanto non si immagini naturalmente, perché ha più o meno lo stesso numero di abitanti, più o meno lo stesso GDP, già oggi estrae il 10% del proprio PIL dall'economia digitale. Allora, il potenziale non può che crescere, perché in questo momento nella storia ci sono circa 2,5 miliardi di persone sul pianeta connesse, collegate a internet. Noi stimiamo, credo anche abbastanza prudenzialmente, che per il 2020, quindi per la fine della decade, saranno almeno 5-6 miliardi. Ecco, 5-6 miliardi di persone che cercano informazioni sulla rete, che sono collegate, che vivono una parte della propria media diet su internet. Sono un'opportunità di rappresentazione delle cose che le nostre aziende sanno fare bene, molto importante. Ecco, diceva appunto, in Gran Bretagna il 10%, in Italia? In Italia siamo poco più del 2%, circa la media dei paesi europei. Purtroppo siamo in ritardo e credo che questo tema sia particolarmente appassionante, per usare un eufemismo, perché sono personalmente convinto, non certo per dovere d'ufficio, non solo per la Google Italy di cui dicevamo prima, sono personalmente convinto che l'Italia sia un paese straordinariamente adatto a fare bene, ad avere successo attraverso l'economia digitale. Provo a spiegare perché. Intanto ci hanno sempre detto: voi siete bravi a produrre praticamente tutto, siete ancora la seconda potenza manifatturiera dopo la Germania, però avete un problema, siete piccoli, non avete grandi aziende. Allora, se questo era un tema fortemente limitante nella prima fase della globalizzazione, dove contava la scala, contavano le sinergie, contava la capacità magari di saturare un investimento in patria e poi di vendere overseas, magari a condizioni di prezzo particolarmente aggressive, questa cosa è diventata progressivamente meno vera con la crescita dell'incidenza della tecnologia e con il beneficio che la tecnologia può dare in termini distributivi, promozionali e di comunicazione. Quindi nanetti sì, ma nanetti sulle spalle di un gigante per la prima volta nella nostra storia. Quindi il partire un po' in ritardo può essere anche un'opportunità in questo settore, la possibilità di fare dei passi in avanti particolarmente rilevanti, magari tenendo conto degli errori che si sono stati compiuti, perché appunto internet è una realtà giovane e sicuramente ha avuto anche dei passi falsi. Quali sono i pericoli che bisogna evitare approcciandosi, avvicinandosi a internet, soprattutto dal profilo del business, non dico del profilo dell'utente normale, ma il business, un'impresa, quale errore deve evitare quando vuole tener conto e integrarsi nell'economia digitale? Fabio Vaccarono. Ma allora, io credo che l'errore più ricorrente, molto spesso poi possiamo tornare su questo, mi chiedono quali sono le barriere a un maggiore sviluppo di internet, una maggiore adozione dell'economia digitale da parte delle nostre imprese. Io credo che l'errore principale ricorrente in questo momento è di avere una visione un po' divisiva di internet. Ce l'abbiamo quando pensiamo a internet come settore separato dal resto dell'economia reale, ma ce l'abbiamo anche come capi azienda quando guardiamo le nostre aziende. Tendiamo a pensare in termini di strategia aziendale e poi di internet strategy, tendiamo a pensare di avere dei responsabili delle nostre business unit e poi quando proprio sentiamo la necessità creiamo un chief digital officer, abbiamo una strategia di vendita ma poi facciamo la strategia di e-commerce. Questo modo di vedere le cose, ci dice la realtà, è superato dai comportamenti del consumatore, anche del consumatore italiano. Considerate che l'utente di internet, per la prima volta forse nella storia del business, ha dei comportamenti che sono strutturalmente più avanti dei modelli di servizio che utilizzano le aziende che hanno a che fare con lui. E questo è particolarmente evidente anche in Italia. Cito un caso: una delle frontiere evolutive più nitide di internet è quella della mobilità. Noi che siamo partiti un po' in ritardo, diciamo, con la rete da connessioni fisse, adesso in termini di penetrazione degli smartphone siamo uno dei tre paesi più avanzati del pianeta. Quindi, per tornare al tema di prima, questo relativo ritardo, che va combattuto, può porre comunque dei vantaggi. Diciamo che c'è una prospettiva un pochino più zero base, e voglio dire, ci sono insigni storici dell'economia come Thomas Kemp che hanno dimostrato che il fatto che l'Inghilterra si sia industrializzata prima di qualsiasi altro paese europeo, poi a metà del secolo del Novecento, ha posto qualche tema di riconversione. Ecco, noi in parte questo tema non l'abbiamo, ma dobbiamo muoverci. Dobbiamo muoverci soprattutto facendo forse entrare delle forze giovani, quelli che vengono chiamati i nativi digitali, coloro che ragionano già all'interno di questo sistema, non come qualcosa che si aggiunge, ma come qualcosa che si integra. La forza dei giovani può essere molto forte. Ma io credo questo. Allora, per paradosso, un mondo che si evolve a questa velocità e con una tale proliferazione dei dati e delle informazioni disponibili è sicuramente un mondo che ha ancora più bisogno di prima dell'esperienza, perché i saperi specialistici deve lasciare spazio al metodo. Questo è confortante per i diversamente giovani. Il metodo giovani. Non si può che consolidare attraverso le esperienze, quindi c'è bisogno di generalismo e di generalismo metodologico. Non c'è dubbio, tuttavia, che però sui saperi specialistici, per la prima volta nella storia, nuovamente, ci sono molte novità, molte eccitanti novità da questo punto di vista, su cose importanti oggettivamente sono i giovani a poter insegnare alle persone più grandi. Quindi questo gap anche culturale è un gap su cui noi, per esempio, come Google Italia abbiamo investito. Uno dei pilastri del nostro progetto per il Made in Italy è stato proprio quello di dare delle borse di studio, di puntare su dei giovani molto bravi, promettenti ed esperti di discipline digitali e metterli in contatto con imprenditori altrettanto geniali, creativi e brillanti all'interno dei nostri distretti produttivi, proprio con l'obiettivo di far circolare questa cultura. Io credo che la cultura sia la prima barriera che noi abbiamo in Italia, molto più della banda larga. Questo è sicuramente un tema avvincente, come seminare la cultura, come far crescere la cultura, una cultura che è anche una cultura digitale, anche come strumento, come capacità di approfondimento, come capacità di relazione e non solo di connessione, perché tra connessione e relazione forse c'è qualche differenza. Incontri. Ancora con le note della Sinfonia del Nuovo Mondo, riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Fabio Vaccarone, amministratore delegato di Google Italia. Google Italia è una società, una delle più grandi società mondiali a questo punto, che opera nel settore di internet, ma una società relativamente giovane, ha poco più di 15 anni. Anche Radio 24, peraltro, ha festeggiato i 15 anni pochi giorni fa. Auguri. Grazie, grazie degli auguri, auguri anche a Google, che sicuramente, ecco, avrà un futuro ancora di crescita, perché il settore di internet è un settore in forte crescita e Google è riuscita ad essere il sito più visitato al mondo, e penso che sarà un primato difficile da scalfire, anche se la concorrenza è benvenuta. Assolutamente. Ecco, allora abbiamo parlato del futuro, di cosa ci si può aspettare, quali saranno le prossime evoluzioni. Quando si guarda all'innovazione si pensa sempre abbiamo raggiunto il massimo, eppure internet 20 anni fa non c'era ed è qualcosa che ha cambiato il mondo. Che cosa ci aspetta in futuro, Fabio Vaccarone? Ma spesso si sente l'espressione su, diciamo, internet e la digitalizzazione, si dice we have seen nothing yet, no? Credo che da un lato il tasso di crescita delle persone che saranno collegate a internet è un tema importante, come abbiamo detto. Dall'altro, per esempio, penso all'evoluzione dello scenario dei mass media. Questa regola che abbiamo cercato di raccontare prima, per cui internet è veramente un layer, una piattaforma orizzontale che non si sostituisce alle altre cose, è particolarmente evidente. Penso per esempio al mondo della televisione. Televisione che è stato un mezzo ed è tuttora un mezzo straordinario, fondamentale, molto adatto anche al modo con cui l'Italia è organizzata. Noi siamo uno dei pochi paesi europei in cui oltre il 75% della popolazione vive in comuni con meno di 50.000 abitanti, no? Quindi un paese con una... Ecco, però in Italia ci sono state alcune esperienze, diciamo così, un po' negative sul fronte di mettere internet alla televisione. Sono due modi appunto di guardare la realtà che sono rimasti un po' separati. Si può vedere invece un futuro in cui c'è un'integrazione maggiore? Assolutamente, fa proprio parte del discorso che stavo facendo. Cioè, anziché vedere internet come un mezzo contrapposto alla televisione o contrapposto agli altri mezzi, si tratta di vedere internet come una modalità tecnologica, interattiva, real time, on demand, attraverso la quale i consumatori continuano ad abbeverarsi a quello, avendoli fatto poi per una decina d'anni, che continuo a considerare il mestiere più bello del mondo, che è quello dei contenuti. Quindi, per esempio, la televisione. Noi tendiamo ad avere una visione della televisione, perdonatemi il gioco di parole, molto verticale, no? Cioè il tubo catodico, poi adesso è diventato magari uno schermo più piatto, ma che tendenzialmente fa un mestiere diverso da internet. Ecco, che tendenzialmente i consumatori sempre più invece vivano una logica di schermi di diverse dimensioni, attraverso i quali si muovono o diacronicamente nel corso della giornata, ma anche molto spesso sincronicamente nel corso della stessa fruizione, è un tema ormai oggettivo. Abbiamo delle analisi che dicono che più dell'80% degli italiani è esposto a una trasmissione televisiva in chiaro con almeno un internet browser aperto. Quindi la profondità, pensate ai tweet durante il Festival di Sanremo, tra diversi mezzi e la possibilità di arricchimento del contenuto, è una cosa sicuramente aggiuntiva e sinergica e non sostitutiva. Ecco, ma in questa prospettiva si parla molto appunto dei dispositivi mobili, ormai che appunto, come diceva prima, in Italia sono cresciuti molto. Vedremo la televisione sempre di più sul telefonino? Io non credo necessariamente. Certo è che una delle grandi direttrici evolutive di internet, oltre alla mobilità, è la direttrice del video. Sicuramente noi stiamo ragionando su una prospettiva per la quale il consumatore va verso un mondo almeno con 6 schermi, no? Per cui avremo lo schermo grande, dall'home theater, diciamo, a quello domestico, che sarà progressivamente più interattivo, più collegato alla rete, no? Si parla di Internet of Things, è un mondo in cui, diciamo, persino gli elettrodomestici di casa, presumibilmente la domotica wireless, avrà una connessione con internet. Sicuramente la televisione sarà uno degli strumenti più interattivi. Poi ovviamente c'è il computer tradizionale, il desktop, c'è sicuramente il tablet. Pensate al contributo che ha dato il tablet alla, diciamo, alfabetizzazione digitale delle fasce più mature della popolazione in Italia. Poi ovviamente c'è lo smartphone, poi ci sono le wearable technologies e poi sicuramente alcuni esperimenti ancora un po' innovativi, se volete, ma crediamo con grande potenziale, tipo le automobili che si guidano da anche, soli. Anche la radio per essere ascoltata su internet. Esatto, perfetto. Quindi video vedremo, Radio 24 nelle fasce di drive time. E questo è sicuramente un arricchimento della prospettiva. Ecco, questo abbiamo parlato di strumenti, abbiamo parlato di mezzi con cui ricevere, con cui collegarsi ad internet, però dobbiamo parlare anche di contenuti. Di contenuti, ecco, Google è un aggregatore di contenuti o è anche qualcosa che produce dei contenuti? No, noi assolutamente non siamo dei produttori di contenuti, noi siamo una piattaforma, siamo uno strumento con cui i consumatori cercano e vengono messi in contatto con delle informazioni sperabilmente rilevanti, perché da questo dipende il nostro successo. Quindi il mestiere nobilissimo e indistruttibile del generatore di contenuti è un mestiere molto diverso da quello delle società di tecnologia. Ecco, si riesce in Google a separare la pubblicità dai contenuti veri e propri come dovrebbe essere ogni sano giornalismo? Assolutamente sì, direi che è uno dei principi su cui è stato costruito il nostro successo. Il criterio, penso per esempio al prodotto tradizionale, che è il motore di ricerca, quello per cui siamo diventati inizialmente, come dire, noti. La distinzione tra risultati di ricerca organica, quindi di reperimento delle informazioni, e l'esposizione di messaggi chiaramente denotati e connotati all'interno della pagina è nitidissima e segue delle logiche assolutamente parallele e non comunicanti. Peraltro la pagina iniziale di è stata la nostra forza, devo dire, cioè il fatto che il criterio della rilevanza, what's relevant for the user, fosse messo al centro, in qualche modo sovvertendo anche la logica dei media tradizionali che ti dicono se vuoi stare in alto nella posizione nobile, penso alla... Io poi ho lavorato al Sole 24 Ore e ancora mi ricordo con emozione di quell'esperienza, per esempio la quarta di un quotidiano tendenzialmente una posizione più pregiata e più cara. Ecco, non è così. Per uscire alti sullo scaffale digitale bisogna essere rilevanti per il consumatore. Ecco, peraltro è quasi la contraddizione il fatto che Google abbia questa prima pagina essenzialmente bianca, essenzialmente pulita, in cui non c'è nulla. No, non è una contraddizione, va proprio nello spirito che cercavo di enunciare precedentemente, la rilevanza per l'utente, quindi la chiarezza, la facilità, l'utilizzo dell'interfaccia per diminuire i tempi tra l'informazione che una persona sta cercando rispetto alla risposta che viene fornita è un criterio chiave su cui tutto il nostro sistema e tutte le nostre decisioni strategiche sono costruite. Ecco, non c'è altro. Prima diceva che Google non è solo un motore di ricerca. Io penso che il 95% di chi ci ascolta pensi a Google solo come motore di ricerca e lo usi perché poi è il motore di ricerca più usato. Che cos'è oltre ad essere un motore di ricerca? Ma diciamo che è stato nella prima parte della sua storia soprattutto un motore di ricerca. Google è una società di tecnologia che cerca, diciamo, come fil rouge delle proprie attività di lavorare attraverso l'innovazione tecnologica per portare dei piccoli, grandi, rivoluzionari cambiamenti nel senso di miglioramento della vita di milioni di persone. Spesso noi usiamo la metafora, forse un po' folcloristica, dello spazzolino da denti. Lo spazzolino da denti è un bene utilizzato sperabilmente dal 100% della popolazione, sperabilmente almeno due volte al giorno, ci ha migliorato la vita, ci ha resi più sani, più socialmente attraenti e così via. Il nostro tentativo è quello di apportare, attraverso l'innovazione del pensiero tecnologico, dei cambiamenti alla vita dei consumatori, avendo impatto e rendendo la loro esistenza tendenzialmente più proficua. Siete dei benefattori in pratica? No, dei benefattori riteniamo di sì, diciamo il missionary statement della compagnia è particolarmente forte e credo che anche, diciamo, le survey, la reazione, l'emotività con cui i consumatori parlano di Google è particolarmente positiva. Ovviamente poi siamo una società come tutte che compete, certo, e sta su un mercato anche progressivamente affollato e viva Dio, la search sta conoscendo una grande maturità, stanno intervenendo delle aziende più specializzate. Pensate per esempio al tempo passato sul mobile. Certo. Su mobile la competizione è particolarmente dura perché l'80% del tempo del consumatore italiano sul mobile è fatto sulle app e non più sui motori. Ecco, siete anche una società che assume delle persone, che sta crescendo, quindi in questa realtà un po' difficile è sicuramente una società che cresce, è qualcosa di positivo. Sì, devo dire che noi cresciamo grazie ovviamente alla crescita dell'economia digitale, ma grazie soprattutto al successo delle aziende che poi aprendosi al digitale hanno successo a propria volta. Sicuramente assumiamo ovunque sul pianeta perché siamo una società globale, quindi sì, per quante fortuna. Quante sono le società di Google, le company nel ma mondo? Sono tante, tendenzialmente ce n'è, come dire, una per ogni paese rilevante, però diciamo noi siamo una corporation molto globale da questo punto di vista, quindi ci sono moltissimi italiani bravi, anche assai più di me, che lavorano in Google in molti paesi del mondo. Come si diventa amministratori delegati di Google Italia? Qual è la sua esperienza? È una bella domanda, premesso che anche un'azienda così eccellente non è immune da errori di selezione. Ma io credo che tendenzialmente ci voglia molta passione per la tecnologia, per il cambiamento. Io personalmente ho un originario DNA da consulente, quindi mi piace, come dire, aiutare le aziende a pensarsi e ripensarsi. E poi, come sai, siamo stati anche colleghi, ho una competenza del mondo dei media. Pubblicitario. Sì, è anche pubblicitaria, che in qualche modo poi è importante, certo, per lo sviluppo delle nostre attività. È stato il Sole 24 Ore, è stato la Manzoni, è stato in queste grandi società di pubblicità, in RCS, quindi una carriera, diciamo, al vertice negli ultimi anni, negli ultimi decenni, o comunque in grandi realtà editoriali. L'editoria ha qualche problema in questi ultimi tempi, come la vede? Ma diciamo che l'editoria in questo momento sta conoscendo una fase di transizione sicuramente complessa, dovuta a due fattori. Uno, una certa e perdurante crisi nei fondamentali. Questa crisi è stata molto lunga, è iniziata alla fine del 2007. Il nostro è ancora un paese che stenta a ripartire, cosa che invece magari alcuni vicini di casa come la Spagna stanno riuscendo a fare in qualche modo meglio. Io credo tuttavia, non per una nota ottimistica pregiudiziale, credo che il nostro paese, soprattutto in un'economia sempre più connessa, un mondo sempre più flat, come era stato definito da un saggio di qualche tempo fa, abbia enormi e gigantesche opportunità. Quindi questo è un primo gradiente. Il secondo gradiente è che i consumatori ci dimostrano un interesse crescente nei confronti dei contenuti e dei contenuti di qualità. Io non riesco a immaginare una società globale, interconnessa, post-industriale, che non abbia una fame crescente di contenuti di qualità. Posso avere dei dubbi sul petrolio, ma non posso avere dei dubbi sui contenuti. Allora, come fare a costruire dei modelli di successo in questo scenario è un tema molto dibattuto, è un tema a cui stanno dando delle risposte diverse. Considero una parte particolarmente stimolante della mia attività, vista la mia provenienza, cercare di riuscire a dare una risposta in chiave italica. Quindi ci sarà spazio per un'informazione di qualità, un'informazione mediata appunto professionalmente, un'informazione che però andrà anche pagata. Quindi forse il problema è anche quello di far capire che internet non è del tutto gratuito, internet in qualche modo deve avere anche dei contenuti a pagamento. Ma diciamo che internet, come dicevo prima, è un modo per mettere in connessione il consumatore con un'informazione che sta cercando, o per dargli, come dire, un'informazione, un contenuto rilevante su una piattaforma nuova. Il fatto che un contenuto sia ritenuto degno o non degno di un pagamento premium dipende dalla qualità del contenuto e dal livello dell'interlocutore. Penso a casi di giornalismo anglosassone di straordinario successo. Sentivamo da un grande editore americano che adesso, grazie a internet, devo dire col vantaggio della lingua, gli anglosassoni certo hanno questo vantaggio, gli utenti complessivi della piattaforma dei mezzi sono passati da 6 a 54 milioni. Il potenziale c'è, si tratta di trovare delle vie e di vedere il successo dei propri contenuti progressivamente più slegato dalla forma fisica che ha contribuito a renderli noti. Cercare di accettare il cambiamento, mettersi nell'onda del cambiamento, cercando anche di guidarlo, di essere protagonisti. Questa possiamo dire che può essere la filosofia di questa nostra conversazione. Grazie Fabio Vaccarono. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Fabio Vaccarono, amministratore delegato di Google Italia. Ringrazio anche Paolo Corleoni in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Magari passando anche da Google come motore di ricerca. Grazie ancora a tutti e buona domenica per quanto rimane.